Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sanremo non lo vedo da almeno 15 anni, ma mi si presenta questa occasione. Fare il giurato nella giuria popolare per il festival del 2008. E mi dico, perché no? Ciao, sono Gianluca, sono di Torino, sono sposato, ho due bambini e sono un tecnico informatico a Torino. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi. Ora non mi va. Ve la ricordate questa canzone? Ve la ricordate per forza questa canzone se avete una trentina d'anni. Cercate di ricordare che anno era, dove eravate, cosa succedeva. Di là in regia intanto c'è gente che si alza il cappuccio e si imbarazza. Invece no, non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Questo già lo so. Ah no, questo non lo so. Era il 1992. Lui si chiama Aleandro Baldi e lei si chiamava Francesca Lotta. Questa canzone vinse il Festival di Sanremo del 1992 nella categoria giovani. Io non ho paura e voglio innamorare. Ci sono delle canzoni del Festival di Sanremo che in qualche modo ti rimangono attaccate, non so neanche bene dove, però ti rimangono addosso e non so perché ogni tanto a me torna questo ritornello qua, esattamente questo. Tra l'altro c'è il pezzo in cui dice non amarmi perché vivo a Londra ed ero convinto che lo dicesse non amarmi perché vivo a Londra. Non avevo mai capito perché, credo tutte, anche Tiziano Bonini. Va bene, possiamo chiuderla, grazie, perché di là stanno soffrendo in tantissimi. Oggi noi facciamo quello che facciamo di solito, e cioè raccontiamo una storia, parliamo di una cosa attraverso una storia. Oggi è la quarta serata del Festival di Sanremo e noi raccontiamo una storia che ci ha raccontato un nostro ascoltatore, nella fattispecie Gianluca, di quando ha partecipato da giurato quella sera al Festival di Sanremo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, 349-238-6666. Se avete voglia di condividere con noi qual è quel pezzo di Sanremo che in qualche modo, non voglio sapere quale, qualsiasi modo, vi ha segnato ed è rimasto addosso. 349-238-6666 oppure su Facebook voi siete qui Radio 24 o altrimenti voi siete qui R24 sul profilo Twitter. Se avete un video come già hanno fatto diverse persone da condividere, se volete semplicemente mettere un link a quella canzone di Sanremo, fatelo. Io, prima di raccontare quali sono le canzoni che sono state postate e soprattutto la storia di oggi, voglio farvi sentire questo piccolo dettaglio che non tutti sanno, perché dal 1992 quella canzone, cioè la canzone di Aleandro Baldi e Francesca Lotta, divenne un singolo di Jennifer Lopez, che esordiva come cantante nel 1999. Quel pezzo suonava più o meno così. L'arrangiamento fa ancora più schifo. E una volta ero negli Stati Uniti in vacanza, salì su una macchina di un tassista, credo messicano, non ricordo, comunque era sudamericano, e lui, ve lo giuro, stava ascoltando questo pezzo. Si chiama ovviamente Nome Ames e sono Jennifer Lopez e Mark Anthony. Direi che possiamo chiudere qua con questa parentesi sul nostro Festival in Sanremo. Se invece avete un brano particolare che, ripeto, vi ha segnato e volete condividerlo, voi siete qui Radio 24, ve ne leggo alcuni. Gianluigi, per Gianluigi il pezzo che lo ha segnato di Sanremo è stato Luis Miguel. Devo dire più di uno. Noi ragazzi di oggi era il 1985. Qualcuno posta i Subsonica, Tutti i miei sbagli, Egli, le storie tese, La terra dei cachi, oppure Eros Ramazzotti, Una storia importante. 349-238-6666. So che non siete per niente in clima da festival in questo momento, perché è ancora presto, perché magari non ve ne frega niente o perché semplicemente state pensando ad altro, però fate un attimo un passo indietro con la testa. Ce l'avete davanti agli occhi, dietro c'è quell'orchestra tristissima che suona e lì davanti c'è un tizio impaurito che sta cantando. È un pezzo della vostra vita, è un pezzo della canzone italiana e oggi la raccontiamo a Voi siete qui. Un pezzo di quella vita lì, da dietro le quinte, ce l'ha raccontata Gianluca. Siamo a Torino ed è il 2008. Sanremo non lo vedo da almeno 15 anni. Mi si presenta però questa occasione, fare il giurato nella giuria popolare per il Festival del 2008. mi dico perché no. Tanto peggio del Napoli in Serie C non può essere. Sono, ahimè, tifoso del Napoli, ma torinese in tutto e per tutto. Mi lascio dunque convincere dalla ghiotta occasione. Arrivo incuriosito e, come pattuito, alle 18 sono in Via Verdi. Mi devo sorbire su maxi schermo nell'ordine la vita in diretta con i piagnistei di Cucuzza, la lettura del regolamento interno Rai, l'eredità, il TG1 e i soliti ignoti con Frizzi. 10 minuti prima dell'inizio si presenta una tizia che, proclamandosi responsabile di giuria, comincia a farneticare le più elementari regole di educazione civica, spacciandole come verità dogmatiche, nonché modus operandi della votazione, diffondendo tra l'altro un clima di lieve terrore nei presenti. Vi assicuro che ai seggi per le votazioni politiche si respira molta meno tensione, lo garantisco. Questa giuria era composta da una cinquantina di persone di vario genere, diciamo, era rappresentativa della popolazione, diciamo che le proporzioni erano mantenute sulla base della composizione dell'Italia, diciamo. C'era suddivisa una percentuale di donne, giovani, anziani. La responsabile di giuria ha un'età indecifrabile, tra gli 80 e i 125 anni. Tutti, senza parlare, ci siamo chiesti: ma ce la farà ad arrivare all'1:30? Accanto a lei il notaio, cioè la notaia, una signora dal fare piuttosto volgare, sulla cinquantina, con un décolleté volutamente forzato, che ostentava un'orrenda collana dal prezzo superiore al bagno di casa mia. Ci viene spiegato che, pena l'annullamento della scheda, che veniva data ad ogni canzone col nome del cantante e il titolo del brano, andavano apposte soltanto 2 croci, una sulla fascia dell'età del votante e l'altra per esprimere il voto da 1 a 10. Capisco che probabilmente nessuno di noi avesse la faccia particolarmente intelligente, ma ripeterlo all'incirca 54 volte, secondo me, è configurabile come una forma estrema di mobbing. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. Sulla competizione canora in sé pensavo peggio. Qualche canzone apprezzabile per costruzione musicale e testo effettivamente c'è. Tra tutti ricordo Cammariere. Volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sempre tra. Ma ricordo anche Max Gazzè. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. E soprattutto ricordo Tricarico. Io voglio una vita tranquilla, perché da quando sono nato che sono spericolato. E poi ricordo un grande Chiambretti, ricordo dei grandissimi Elio e le Storie Tese che si presentano a mezzanotte inoltrata in Vestaglia, sollecitando Baudo ad una più rapida conclusione dell'ormai interminabile serata. All'1 ci viene detto restano solo 2 cantanti, all'1. La reazione della platea, cioè dei 50 giurati, è un tentativo di suicidio di massa, ma il peggio non era ancora arrivato. Coloro che dovevano esibirsi rispondevano ai nomi di Zarrillo e Cutugno. Una ragazza giovane accanto a me alla notizia collassa, pare sia ancora in prognosi riservata alle Molinette di Torino. Probabilmente la cosa più noiosa è stata l'attesa, la lunghezza dell'evento, diciamo. All'1:30 aspettiamo agonizzanti l'ok dalla sede di Milano per andare a casa. Siamo incredibilmente in ostaggio di una ultra ottuagenaria che continua a dirci che dobbiamo rimanere lì, in sala. Oggi quasi mi manca. E mi chiedo se sia molto banalmente una forma di sindrome di Stoccolma. Alle 2:20 raggiungo la mia bicicletta attaccata con una catena davanti alla vicinissima centrale di polizia del centro. Ci sono anche dei poliziotti che, fumando, scazzati vista l'ora, hanno il coraggio di dirmi: ora ti facciamo la multa perché non hai pagato il parcheggio. Arrivo a casa dopo 10 minuti, ma non è facile addormentarsi dopo una rinfrescante gitarella in bicicletta per il centro di Torino alle 2 di notte. Crollo a fatica alle 3.30, quando dopo 5 minuti inizia il mio personale dopo festival. Nicolò, mio figlio di 5 mesi che oggi ha 6 anni, non ne vuole sapere di dormire. Risultato, ho totalizzato 2 ore e 40 minuti di sonno per essere alle 7.30 in ufficio. Tutto questo per aspettare Toto Cutugno. È in bianco e nero la fotografia che ci ha mandato Gianluca, il nostro giurato di Sanremo. Credo il primo giurato di Sanremo che io abbia conosciuto in vita mia. Dicevo, in bianco e nero, è fatto con la webcam, sta guardando lo schermo del computer e si sta togliendo una penna dall'orecchio come se avesse avuto un'idea geniale che deve appuntarsi da qualche parte. Pronto Gianluca? Pronto, ciao. Come stai? Ciao Matteo. Bene, bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Sono esattamente nello stesso luogo dove dal quale ho scattato la foto. Cioè a casa? Esattamente. Ok, però tu di solito lavori a quest'ora oppure? Di solito lavoro ancora a quest'ora, però ti sei preso? No, sono uscito un po' prima. Che lavoro fai? Faccio il tecnico informatico all'Università di Torino e sostanzialmente aiutiamo le persone a lavorare. Ok, quindi sei IT manager, sì. IT, ok. Sì, lavoro in ambito sistemistico, diciamo. Quindi quando non è che vieni chiamato se c'è un cavo staccato. Oh, il computer non funziona. Guarda, anche quello. Vale tutto, diciamo. Gianluca, tu sei ufficialmente la prima persona con cui parlo che abbia schiacciato un tasto. In realtà tu mi dici che non schiacciavate tasti, mettevate crocette sulle canzoni. Come avviene? Come vieni chiamato? Cioè ti arriva una lettera a casa, una raccomandata? Guarda, io in realtà non ricordo bene come andò. So sostanzialmente che conoscevamo una persona alla quale servivano delle persone che andassero a comporre questa giuria demoscopica. Questo campione, della popolazione italiana. Esatto, un campione che fosse rappresentativo, esatto. Tutti maggiorenni però, immagino, o no? Tutti maggiorenni. Se non ricordo male, tutti maggiorenni, sì. Quindi c'erano uomini e donne dai 18 ai 90. Chi era il più vecchio della giuria? Penso il responsabile di giuria. Però lei non votava, la 125enne, insomma. Esattamente, penso che fosse proprio lei. Io persone troppo in là con gli anni non le ricordo. Quindi voi sostanzialmente eravate seduti in una stanza con una televisione davanti, questo è, giusto? Sì, con un maxi schermo. Un maxi schermo che mandava in onda la programmazione Rai. E ad ogni canzone, prego, crocetta e voto. Ad ogni canzone ci venivano dati due fogli diversi sui quali apporre appunto l'età del votante, cioè la mia, che ho dovuto ripetere n volte, e appunto il voto alla rispettiva canzone. Ma scusami Gianluca, non veniva chiesto, non ti è stato chiesto che tipo di gusti musicali avevi? No. Cioè qualche domanda per sapere qualcosa di più su di te è stata fatta o semplicemente avevi l'età giusta ed eri un pezzo di campione? Era molto vaga, gli skill iniziali erano molto vaghi, okay. Bastava semplicemente essere un ascoltatore più o meno abituale di musica. Senti, tu ti ricordi chi hai votato? Cioè a chi hai dato il voto più alto? Credo di averlo dato Max Gazzè. E il voto più basso? Ne ho dati tanti, ne ho dati diversi perché ho trovato veramente più della metà delle canzoni orribili. Senti, com'è che sei torinese ma sei tifoso del Napoli? Tra l'altro da quando eri ieri ti sei trovato nella stessa situazione, ieri il Napoli giocava e c'era pure il festival. Sì, diciamo che non in una situazione del genere non ho l'imbarazzo della scelta. Sono sempre le 16.26, questa è Radio 24, voi siete qui, siamo al telefono con Gianluca che ci ha mandato oggi la storia in cui si parla di Sanremo e della sua esperienza da giurato. Gianluca, ci sei ancora, vero? Sì, ok, vabbè, scusa, c'è stata una notizia importantissima da raccontare, quindi siamo ritornati noi, devo quasi salutarti, però mi racconti solo come si diventa tifosi del Napoli stando a Torino, perché sei di origine napoletana, no? Esattamente, okay. È colpa dei miei genitori. Ok, è soprattutto colpa loro. O merito loro. L'hai guardato il festival in questi giorni? Ho guardato veramente poco, ho guardato mezz'oretta della prima serata e diciamo che i giudizi sono più o meno gli stessi dell'edizione alla quale ho partecipato. Ma tu da allora ti senti un po' più parte di quella famiglia lì, di quelli che lo fanno, di quelli che aiutano a far vivere questo festival, come si dice da anni? Sì, un pochino sì, perché essendo italiano, diciamo, il festival fa parte della nostra cultura. Insomma, un pochino sì, ma un pochino anche chi se ne frega, tutto sommato, mi sembra di capire. Esattamente, come la maggior parte degli italiani, credo. Ok, come per tutto. Gianluca, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, grazie a presto. A voi. Chissà se sono contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai nessuno cosa sento. E se c'è una canzone di quest'anno del festival che in qualche modo ci rappresenta, non può essere ovviamente che la canzone dei Perturbazioni, che si chiama Unica, che non è quella che state ascoltando in questo momento. Questa è una delle canzoni che i Perturbazioni hanno cantato qui al live di Voi Siete Qui un paio di mesi fa, quando già si sapeva che sarebbero andati al festival. Se avete voglia di rivedere quel live, se avete voglia di vedere quei pezzi di musica che ogni tanto facciamo qui il mercoledì, la settimana prossima ne avremo un'altra, la settimana prossima lo annunciamo in diretta, ci sarà Levante, che è un po' la più giovane rock pop, cantante rock pop, quanti anni c'ha? 24-25 anni, diventata molto famosa per quel pezzo che si chiama Alfonso. Ma questa settimana prossima, vi dicevo, se avete voglia di vedere i live che abbiamo fatto, andate sul nostro YouTube o sul nostro profilo Facebook e li trovate. Quindi Vive Perturbazione, cantano stasera? Ma canteranno sempre, immagino, no? Ma ci sono ancora le nuove proposte? Ci sono ancora? Nessuno lo sa, nessuno. Margherita lo sa per forza. Sai se ci sono le nuove proposte al Festival di Sanremo? Non lo sa. I giovani, certo, vedi, arriva a Cantadori a dircelo. Però i Perturbazione canteranno, Vive Perturbazione, 349-238-6666, i pezzi che hanno fatto parte della vostra vita. Oggi un Dio non ho, di Raff Scriverino, oppure Vado al Massimo, di Vasco, due Vado al Massimo sono arrivati. Anna Oxa, Un'emozione da poco, Vita Spericolata, di Vasco, Scialpi, scrive Alessandra da Gemme, Ne andavo matta, Dolce Nera, Gli Statuto e Pittura Fresca, Come eravamo di Rudy Marra, ma vince tra tutti secondo me quello che era fare il militare. Giorgia, Come saprei, 1995, Caserma a Termini Imerese, steso sulla branda ad ascoltare. Ero in Sicilia per i Vespri Siciliani, ero a Palermo, comunque un bellissimo ricordo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, si chiude qui la settimana di Voi Siete Qui, è venerdì, ci risentiamo lunedì, voi continuate a raccontare storie, inviatecela a voisietequi@radio24.it. Ascoltateci in diretta alle 5:15 del mattino in replica, oppure in podcast dal sito o in streaming dalla app di Radio 24. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto a Gianluca, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Amaranta, vengo da Verona, la storia di lunedì è la mia e parla di Salvador. Questa è la mia storia e io sono qui.